tardi non faccio oggi, dai, se riesco a tirare avanti ancora un'oretta, dopodiché mi faccio una bella docetta veloce, veloce, veloce e scappo anch'io a nanna. Positivo, beh, normale, si va a stare presto, lo credo bene, Giuseppe, lo credo bene. Ok, va bene, dai, riprendiamo questa oretta e anch'io mi trattengo molto. Ok, va, rilancio il mic a Natalino, avanti Natalino. Positivo, Natalino, ti sei tornato a abbassare di voce. Sì, direi che mi sono abbassato di volte, mi pare strano. Confermi Giuseppe. E K di positivo, è abbassata di 2 tacchette la voce di Natalino. Se prima era Radio 5, adesso abbiamo Radio 3, cambio. Ma strano. Avanti Natalino, fai un bel passaggio a zio Giuseppe, dai, vediamo un pochino, magari eri appena distante anche da quel microfono. Ma questo amplifica anche in lontananza, ha capito la cosa del discorso. Beh, adesso hai fatto un passaggio da Radio 5 e lode Natalino. Forse perché ero rivolto verso la finestra che sono vicino al termosifone, che vuoi vedere? E per me qui adesso stai arrivando bene, confermami anche tu l'amico Falchetto come senti l'amico Natalino, cambio. È positivo, adesso ha migliorato, adesso ha migliorato, che va bene bene, va bene così Natalino, ya, capisco che c'è freddo, devi scaldare tutto quanto, va bene bene, riprendi. Aspetta Natalino, Giuseppe. Avanti! Scusa, ma te lo volevo già tu io, Marchino. Non ti ho copiato, è troppo veloce come passaggio. Allora, ti ho chiesto se stai usando Marchino o te lo tu io. Cappa Luca, cappa. Tu hai una bomba, Speriamo non mi esploda qui sul mobile, perché guarda, il mobile nuovo, nuovo, nuovo, nuovo e ancora non l'ho assicurato. Cambio Luca. Non posso dire il contrario, perché, vabbè, la batteria è cambiata, confermi. Ti ha messo la batteria al microfono, Giuseppe. No Luca, l'ho misurata ed è perfetta. Qui a 9.35, cioè anche tu non scherzi. Ah, ripeto, siamo, si può dire un tiro di schioppo, dai. Allora, lì l'altro giorno c'era un amico tempo fa, Antonio, tu lo riserva, e me l'ho sparato da lì, cioè mi ha fatto qua turbo. E abitava lì dove abitavo in giù, quando non è. E K, conosciva? Conosciva bene, la bomba. Ho capito Luca, ma poco fa stavo parlando anche con Gianni, ci siamo sentiti mentre partiva da Porto Torres per entrare a casa e niente, bisogna trovare qualcuno che per quanto riguarda l'antenna se ne intenda un po' e Luca. Gianni più o meno. E K. L'altra domina aveva un po' cosa c'ha. Ma io sai che cosa ho fatto Luca? Ho tolto l'attacco dell'autoradio che avevo, no? L'ho messo dentro la capota l'attacco dell'autoradio e ho attaccato l'attacco dell'antenna che era uguale e preciso identico all'attacco dell'autoradio, tutto qui. Ma bisogna vedere se il piede è andato bene, il piede a massa e tutte queste cose di controllare, dai. Mi attendo che è bravo facciamo queste cose. Perciò se mi serve una mano non c'è il problema. La posso dare anch'io, ma comunque c'è qualche cosa che non va con l'antenna, perché è impossibile. Allora, come ci sono andato via dove eravamo stasera, che hai fatto via male di notti, non ti sentivo più, basso basso. Niente, ma e poi quando ho messo l'altro baracchino in viale Porto Torres, sei com'ero? Negativo, sempre basso, ma come va l'antenna tu, caro Giuseppe? Dai, allora bisogna che la rismonti e lo controlli bene, dai. Anche perché la massa doveva essere buona perché io io prendevo alla grande, è proprio l'impianto fatto dalla casa. Ma non c'entra niente, non c'entra niente, Giuseppe, la tua radio con quell'antenna, è tutta un'altra cosa diversa. Quell'antenna c'ha il problema che deve avere la carica di salvata. Capito? Sicuramente è quello. Ma la carica tu cosa intendi, Natalino? Spiegami un po'. C'è un'induttanza dentro. E quella lì è di saldata. E sta uscendo solo col capo praticamente. Ah, capa, dai, allora è meglio che la vedi tu, Natali, perché io per far danno preferisco non toccarla. Ma tu stai dicendo comunque penso che va attaccata alla carrozzeria, non l'antenna di per sé, vero? L'antenna, bisogna controllarla. Perché l'antenna, dove c'è quell'affare nero, dove entra lo stilo, lì c'è un'induttanza lì dentro, una specie di molla. E quella lì deve essere risaldata sicuramente, non fa contatto. Capa, dai, allora vediamo un pochino quando coincide Natali di dargli uno sguardo e via, perché non so che strumentazione potrebbe servire, se ci vuole il tester, se ci vuole il rosmetro, questo è Natali, chi meglio di voi non lo può sapere. Vabbè, non c'è problema, se la compro dietro. È capa di positivo, Natalino, dai, facciamo entrare l'amico Falchetto, dai, Falchetto, avanti. Positivo, basta controllare le cose piano piano, tutto si mette a posto e tutto Roger anda bene vera. Poi è un po' stanchino stasera, volevo minacciare la marina, ok, dai, riprendete. Avanti Luca. Io ve la porto il maggio, dai, voglio le pizze. Andà bene, Luca, fai tranquillamente, buona carica. Grazie anche a voi, fanno la parte, se sono una digestione, cambio, passo, avanti Beatles. Buonasera a tutti. Buonasera a lei, maestro, ben arrivato e ben entrato in frequenza in compagnia di Giuseppe, di Luca e dell'amico Natalino e dell'amico Falchetto. Cambio. Per il positivo, buonasera a tutti. Buonasera, sono rientrato, capa. Certo che qua a tutti comunque. Ah, quella roba, questo è. E capa, Pierpa, com'è? Va benissimo, la bomba qua è radio, perfetto al centro. Chissà, una saluto l'abbiamo fatto fare, Grazie per ci voleva dopo tanto, ma pian pianino vediamo sempre di dare un colpetto sempre per migliorare. Pierpa, ciao, mi sento. E altro che ti sento. Guarda se riesci a fare la tua, io ce l'ho a cavare le frequenze, la mia qua da 26, 1, 2, 3, no, quello qua c'è 6 manne, ne dovresti fare una, sai che 9 manne, quello fa A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 manne, quindi un punto ce la fa rimediargliela, mi compri che esce bene quella parecchio. Io me ne vado a letto, dai, che domani me ne devo alzare presto, ci sentiamo le prossime. Ciao a tutti e guarditi per me, dai. Aspetta, buon cuore, adesso ne vai a letto. Aspetta un attimo, adesso mi dico anche un'altra cosa, Giuseppe. Io te lo dico, poi fai come vuoi, però non me la faccio perdere. stanno bene. Luca, io sono un po', anzi io sto uscendo grazie all'amico Pierpaolo, perché è stato così cortese, guarda, da prestarmi il suo, ne ho anche un attimino la faccia in terra, perché sarebbe anche ora che glielo renda. Non ti preoccupare per quello, non c'è problema. Dunque, se non vuoi, me lo dici, e te lo faccio vedere subito. Si può fare questa cosa qui, perché adesso io domani sono fuori e dopo domani lo stesso, e siamo già mercoledì, giovedì e venerdì. Per sabato credo che si possa fare lo stesso, se non sono vede. Ah, sì, speriamo di no. E beh, dimmi se me lo può tenere. Io devo ancora dire, però la persona se è fatta così se la trova, lo vede. Io posso anche dire. Già, dai, e io purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna domani sono a Cagliari, quando c'è lavoro si deve girare, e niente, speriamo bene, dai, perché se no io come avrei potuto fare, non è, se domani non ci sono non lo posso manco trovare io, amico. Giuseppe, ti prendi 30 euro. Vai là, la vela, vieni là, io e lui ce lo prende, ed è risolto il problema. Poi magari la vela te lo da venerdì, sabato, o domani notte quando ritorni, non c'è problema. Se non passi qui te li do io, vela, e glielo ritiri, dai, e poi glielo dai domani sera, domani notte. Piano piano Mario, e niente, e me la sposto qua sul tetto di casa, fianco alla mia. non ce la fai, anche se c'è la barra pesante, non si sta tutta in pena. Mannaggia, oh, io perché volevo portare qui anche il mio filo direttamente, Mario. Ma se va molto male, dai, non è così facile. Oh, naturalmente se senti male senza buttare i cosi di pipì sulla testa, Non ce n'è bisogno. Allora, non ce n'è bisogno. Poi io non sento niente, la notte quando dormo, dormo. E che dormo poco, vedi? E allora tu sei come me, Mario, io quando vado a dormire, c'è gente invece che quando si collega dice che sente tutti i rumori. Ma io diciamo che dormo poco, cioè dormo troppo poco e dormo bene le prime ore di sonno, poi causa maggiore mi devo svegliare. Mario, anch'io, perché ormai sono 28 anni di camionista e ormai anch'io a quell'ora, che sia qui su Sassari, che sia domenica, che sia sabato, quasi, io a quell'ora sono sveglio. Lo so, anche anche domenica mattina mi sembra che era l'ora, le 5 e mezzo, lì sì, stavo parlando con Falchetto. Papa Mario, Falchetto lo becco anch'io la mattina presto quando esco, adesso domani mattina come esco in barra, come sistemo tutto, chiudo stabilimento, mi sintonizzo sul 5 e me lo becco, e così ci diamo il buongiorno a vicenda. No, io molte volte mi alzo, siccome penso sempre che è troppo presto, e mi gioco col computer. Fai bene, Mario, anche perché anch'io quando mi alzo presto qui la mattina, ti ripeto, sono qui in zona, l'apparecchio non l'accendo, anche perché ho paura di disturbare qui. Beh, cosa fai? Vedi tutta la famiglia per parlare al paracchino. Non esiste. Ti giochi col computer o con quello che capita. Passo l'ora. Beh, capa di positivo, Mario, ci mancherebbe altro. Per il baracchino ce n'è sempre di tempo. Caspita, ci vuole solo lui già da mattina presto a casa. Uia. E dai, facciamo entrare Luca che ce l'abbiamo un attimino in posteggio. Avanti Luca se sei ancora qui. Luca deve che sta mangiando e ci ascolta. Ah, Luca sta rozzicando. Bene, bene, anda bene, appetito. Avanti, Falche. A tutti spariti sono entrati e sono spariti tutti. Falchetto è andato in QRT mentre tu non c'eri, Mario. È un po' stanco e dice è stata una giornataccia oggi. Figurati poi se capita che o lavorano fuori e qualcosa, guarda, deve essere una tribunia per loro lavorare con questo tempo. Già lo so, già. Quindi hanno tutta la nostra solidarietà, Mario. E poco fa proprio sentiva la voce stanca, dice vado in QRT e mangi un boccone e annanna subito. Allora siamo rimasti solo noi due, Giuseppe. Sì, sì, Mario, siamo rimasti noi due, ma con la Mariglia ci possiamo fare, mannaggia, perché ne mancano due. Vedrai che prima o poi qualcuno dovrà entrare perché l'amico doppio room è arrivato a casa già da sarà una ventina di minuti, dice mangio perché naturalmente dopo una giornata di lavoro bisogna cenare e niente, poi dice rientrava qui in modulazione, Mario. Guarda che io non sono sordo, l'apparato era acceso, ho sentito tutto. È capa di positivo, Mario, va benissimo così. Io adesso quasi quasi sai cosa faccio? Mi prendo un pezzettino di pane e comincio a rosticare anch'io, anche perché a dirti la verità voglia di cenare non ne ho tanta voglia. Un panino, può essere salsiccia, può essere formaggio, o pure i funghetti messi così sul piatto, una spifferiata e via. Allora mi hai letto nel pensiero, Mario, è proprio quello che sto facendo. Mezza salsiccia, vabbè, diciamo due pezzi di salsiccia, dai, un pezzettino di formaggio di quello sardo e via, un bicchierino di vino e su che andiamo. No, io mi sai che faccio diversamente, due pezzi di salsiccia piccante, un pezzo di quella peretta che è bella morbida, un pezzettino di grana, un bicchiere di succo di frutta. Andà bene male, ma succo di frutta quale? Di quello ad acini? No, alla pera. Ah, alla pera, andà bene Mario, dai. Allora, buona carica anche a te. No, è ancora presto. Ecco. Sono le 8:20. Eh sì, sono le 8:20 e tutto va bene. Se mi corrico adesso, per la notte sono in piedi. Mamma mia! Allora, guarda, ti conviene resistere almeno altre 2 o 3 ore in mare. Guarda che io di solito dormo dalle 11:30 alle 3:30, 4 del mattino, qualche volta anche alle 4:30. Però più di tanto non niente. Va bene, va bene. L'importante è almeno fare quelle ore, però fate bene di sonno, Mario, che siano belle, belle tranquille. Guarda, quelle 4 ore che io dormo, tu puoi venire sotto casa, mettere le bombe, distruggere il palazzo, io non sento nulla. E così sono io, perché quando dormo è per dormire. E va bene così, quando sono fatte bene, guarda, quelle ore di sonno bastano anche poche e vanno bene. E non è che vadano tanto bene, no? Io avrei preferito coricarmi a quell'ora che mi sto coricando, però dormire almeno sino alle 5:30, non voglio esagerare, ma almeno un'ora in più avrebbe fatto meglio la salute, perché alla sera dalle 4:30 sveglio in piedi sino alla notte, è pesante, è dura. Beh sì Mario, su quello sono perfettamente d'accordo anch'io, perché in pratica sono 5 ore che dormi, se non sbaglio, no? Approssimativamente 5 ore e mezza, dai. 5 ore e mezza, 6 ore, non di più. Mannaggia, eppure a un'altra oretta magari sarebbe stato l'ideale, perché sembra così, ma un'oretta di sonno in più, e come dici giustamente tu, può essere proprio quella ciliegina sulla torta che ti permette poi di affrontare la giornata più tranquillamente. No, anche perché il guaio è che tu, per dire, sai che domani mattina già devi andare a Cagliari e lo sai già con anticipo. Io invece no. A noi ci può arrivare per dire un fucker domani mattina, ma devi andare là. Devi andare, non c'è nulla da fare. Poi sono problemi lì, mica degli altri, capito? Cappa di positivo Mario, però anche un attimino di organizzazione ci vuole, perché cioè, metti caso che domani devi scendere a Cagliari, cioè fatto così in 448, cioè anche la persona si deve organizzare un attimino. Sì, quando sono cose normali, sì, ma molte volte sono cose normali, tu vai lì tranquillamente, siccome apriamo alle 7:30 noi lì, e molte volte ci arriva il facile, abbiamo bisogno di questo. Ce lo puoi mandare? Allora si chiede che il camioncino veloce veloce si porta. Non è che molte volte ci sono gli imprevisti, non è che è sempre tutto organizzato, capito? Cappa Mario, la verità ti devo dire anche da noi capitano quelle cose lì, perché ti posso dire che la settimana scorsa è capitato anche a me un'urgenza a Tempio e alle 10:30 ho dovuto caricare e partire per Tempio. Vedi che non ero organizzato. Cioè, a te è ancora peggio, perché tu magari sei tranquillo, dici oggi devo rimanere in zona di SAS, di TLAMI, bomba, arriva un fax e ti dice tu devi andare a Lula, tu devi andare a, non so, a Olbia, e cazzo ti trovo impreparato perché non te la aspetti, capito? Cappa Mario, sai quanto è brutto, perché molte volte ti organizzi anche un attimino la giornata, no? E niente, è capitato anche a me telefonare qui a casa mia moglie, di guarda che sto caricando e magari a pranzo non rientro, sapendo che eri qui su Sassari, avevi fatto anche dei piccoli progetti, mi hai capito? Buonasera a tutti. Buonasera a te Gianni e ben ritrovato in frequenza. E allora come si dice? Si parla di lavoro. Avanti Mario. Si parla di lavoro, si parla degli imprevisti che possono capitare sul lavoro, perché lui dice devi essere organizzato, devi fare, ma molte volte tu ti organizzi, no? Perché sei convinto che devi stare più o meno in zona, e poi arriva la telefonata, o arriva il fax, o arriva il ghiso, o arriva il ghiso, e ti dice, ma sì, che arrivi il passo di urgenza. Cava. Non è un controllo di radio, ti ho visto il segno di radio, ma sto provando questo microfono che stava andando problemi. Guarda, penso che ci siano ancora problemi già, perché il segnale è un bel forte, sì, quasi 9:30 come segnale, e la radio però non mi piace, è cupa e... al massimo e radio cupa e stai anche strappando. Va così Giuseppe. E beh, così abbiamo già migliorato parecchio. Allora così va bene, va. Diciamo che così va bene, cosa ti sembra Mario? Non voglio rubarvi le cose discorse, dai, non voglio interferire. Vai, andate avanti, dai, controllo una cosa. Tranquillo Gianni, tranquillo, non ci sta nessun problema, figurati. Avanti. Sì, mi sono spostato un secondo che mi ha chiamato la bambina. Ho sentito che chiamato l'amico Domenico. Ciao Domenico, se mi compri cordialità e buon lavoro. Dopo l'ho regolato e mi ha detto che andava bene. Infatti ora stai riuscendo bene, ora sì, perfetto come sempre. Può essere che non essendoci tu o spolverando o che magari ci sia andato tuo figlio, abbia toccato qualcosa, però stai riuscendo da schifo prima, eri tutto cupo, come saturo, come che stessi strappando, stai riuscendo malissimo. Poi hai iniziato a migliorare piano piano, adesso vai bene alla grande. Cava cava. E io li confermo. No, no, a quel pezzo me lo sono perso. Io non ho sentito quello. Non eri in frequenza, Pierpa, perché prima Gianni ha chiesto una prova microfono. Era copissimo e poi stava anche strappando, stava come che parlasse a sillabe, hai capito? Deve essere, ce l'ho andato a mangiare, già. Maria. Vabbè, non c'è problema. Per Pa, una, ti devo chiedere una cosa. Ascolta, ti ricordi quando mi hai controllato il baracco, che è un baracco pesante qui a casa? Ti ricordi quando mi hai detto ho toccato quel pasto e poi non so, mi pare l'avevi acceso? Ma mi avevi accennato che avevi trovato anche dei canali alfa lì, o sto ricordando male io? Sì, ho trovato 5 canali alfa. Ecco, allora mi ricordavo bene, perché io con Antonio ne stavo parlando ieri e mi ricordavo una cosa del genere per Pa, però non ero sicuro di quello che gli stavo dicendo, però adesso me lo stai confermando tu. Quindi diciamo che le multi Excel, quello che ho nella barretta, qualche canale alfa lo può avere, così è. Gava. Domani. Cos'ora? Non c'è. Fa vabbè. 12 volte mi camion. Se va a prendere se... 12 volte il camion. Magari. C'è il pullman. Questo qui sta pulendo il cortile, c'è il pullman, no? Immagino una ditta di pullman. Metto se li voglio, me le prendo. E me le vendo, faccio quello che voglio. Siccome lui mi ha detto che qui li usano per i rimorchi. Thank you. che sono in della chitarra. Ma se non te vai di zuppo, anche se non ti ci c'è, Ascolti, signor Mario, lei si ricordi più sempre il segreto con la sua antenna, io in barra pesante, stanotte penso di cominciare già a segretare qualcosa, mi porto via antenna, palo e anche un pochettino di filo, cambio. No, noi non segretiamo niente, noi segretiamo direttamente la mola o la motosega. E va bene così, Mario, è la motosega sia. Gappa gappa. Tu sei? A te ne immagini, Dovera, Pierpa, a te ne immagini di Gesù Giuseppe, se ne vuoi fare questa salta l'antenna. Manchina a manchina, senza farmi vedere a nessuno e rinvuto, antenna e capo, e me la fatti i lobi, non si esce in stereofonia. Ah, oh, Mario, non so come va con la pesca, così ti la uccava e ti la può rubare anch'io. E no, Acchini, Maracchini, allora, giusto che si piglia l'antenna, perché di soltarmi sopra, e pigliarmi in una sanuva, non mi gusta di sia granché. Se me ne vedi arrivare a Chini, andare a casa sua e me lo bagno. Ugia, Mario, e vai che sei troppo forte tu. Certo, qui c'ho. Non voglio dire, ma quasi quasi c'è sulla barra sua, me. Tra che vuoi, due sentiti, Iaesu, sono dolori, poi c'è questo. Insomma, Galaxy, tu ne sono a sentire sopra, parlo di più. Ehi, hey, vabbè, ascolta Mario, io poi quando passo con la barra, poi tu taglio mi fermo lì a Marrubio, quattro pezzetti di tavola per fare una bancarella, e sotto a chi tocca, e su che andiamo al miglior prezzo. Ma va, queste sono qui, e rimangono qui, se tu vedi che cosa sto facendo a mettere a posto da compugno, che si aggrappa da redì, Baracchini a tre canali, Baracchini a sei canali, e cosa tutto non sto facendo a mettere a posto, pur di vederli tutti quanti in bilancisi, tipo albero di Natale. Andrà bene, è anche un piacere comunque vederli, anche una bella stazioncina, è sempre un piacere vederla tutta quanta accesa. Dai, avanti Gianni, scusa se abbiamo tralasciato un attimino il tuo discorso per passare a questo, ma è che tutto per te, avanti. Ma qua non c'è nessun problema, Giuseppe, io so anche ascoltare, mi fa piacere ascoltare. Cava cava. Mario, dai, tanto 20 anni qua mi sono passati, fra poco la dobbiamo cambiare con l'antenna. Quindi la posso tagliare stanotte, Gianni? Cava, ma devi stare attenti, chi mi, non si sa mai, se non esci da buca. Ma a me quello che mi preoccupa è quello che ha detto Pierpaolo, di lasciare anche la finestra aperta, così come ti rompisco, ne salgono i baracchini. L'importante è che non ne salga anche l'automatico di Mario. No, non ne ho, io armi non ne ho. C'ho qualche coltello da macellaio, ma non fa niente quello. Ti voglio vedere. Mannaggia. No, si scherza. Si scherza. Comunque, se vuole l'antenna gliela posso pure regalare. Allora, basta che non metti tutti gli apparati. Mario, dai, il bello della diretta è che se non si scherza sarebbe troppo monotona la vita, dico bene, mi va. Cazzo, non mi trovo la mano, questo è passato. Se non vuole un PC. Mi va, cos'è vivo quel microfono? La parola. troppo pugno, come schiatta? Eh sì, quello l'ho, l'ho sentito in diretta quando stavo rientrando da Tempio, Mario. Ha aperto un paio di volte quelle, con quella rotellina, ha detto, ma adesso l'abbasso, e si sentiva poco. Adesso l'apro e mi stava spaccando le orecchie in barra pesante il ragazzo. E gaffa gaffa. Ma qui questi ci sono tutti così. Poi c'è anche un vecchissimo multimode 2, ma carezzai, roba d'antiquariato. Ma è roba d'antiquariato, Mario, però rendiamoci conto di una cosa, che anche se è roba d'antiquariato, se funziona è una bella cosa, ma anche tenerlo, sai, in una vetrinetta è sempre una bella cosa, cioè sono apparati che hanno una storia dietro di loro e sono anche dei ricordi. Ma quello sì, ma poi è bello che io ho il primo baracchino che mi hanno regalato, che è un 40 canali, però usciva un bel bene e niente. E poi da quello lì sono partiti tutti quanti gli altri. Ognuno che trovavo lo raccoglievo, dopo gli si muove a pusso, quando funzionava. E adesso funzionano tutti. Cappa Mario, e lì ci vuole anche passione, come ci deve essere naturalmente per chi sta dietro, come noi, dietro un microfono, dietro un apparato, diciamo così. Ci vuole anche un briciolino di passione per poter, anche per rivederli funzionare, perché sembrano come delle persone, no? Ci vuole la sua attenzione, e se ne hai tanti li devi accendere di tanto in tanto per farle scaldare, sai, è come avere di nuovo dei bambini in casa, mi gira gira. Ma è il capo di positivo. C'ho anche l'amplificatore dell'antenna che non l'ho mai trattato. Che funzione ha questo qui? Per uscire ancora più forte? No, per ricevere meglio quelli che sono piccolini da lontano. Ah, K, ho capito, io credevo che era per schioppare ancora di più, perché se no stavo già spegnendo tutto, a chi lo che impazzente tutto tanto quanto qua vedi. Giuseppe, praticamente aumentai di più i guadagni. Ho capito Gianni, è sempre un'apparecchiatura che si tiene dentro casa naturalmente. Cappa. Attaccata l'antenna, tra l'altro nel baracchino. Ah, ho capito, quindi è come che stai bypassando il PL che va attaccato allo spinotto del baracchino, va lì in mezzo quell'apparatino lì. Tramite uno spettrometro lo colleghi al baracchino. Vedi, anche oggi ho imparato una cosa nuova, hai visto? Ma non sono tutti che funzionano bene, io avevo quello della ZG e non funzionava, come te la rimania, Mario? Ah, così, perché anche questo qui mi sembra che sia della ZG. Aspetta che lo prendo in mano, intanto ce l'ho portata di mano, eccolo qua. Allora, HP28? Via, me l'aveva regalato Stefano, non me. Stefano Principe. Kappa, questo qui è lo stesso. Poi c'è un tazzino AM, poi c'è l'altro tazzino che è 3. Sotto c'è scritto 3. E sotto c'è scritto OFO, sopra c'è scritto M e dall'altra parte sotto c'è SSB e poi ci sono una manopolina che arriva sino a 33. Ma è preamplificato questo? Ah, ho capito. Giuseppe. Avanti Antonio. Ah, Antonio, che coro sono, come ricevi con questo? No, con questo ti sento più basso, Pierpa, è per quello che ti ho scambiato per Antonio. La zecca di questo. molto da vedere. L'ho riparato, Ma diciamo che nonostante l'età, ancora se la può. Ehi, per essere il mio 160 già va bene. Ah, andà bene, ha quasi 50 anni il ragazzo, Ehi, già va bene, quasi 50 io, Già, come mi senti tu con questo? Gianni Doppiolù, come mi senti con questo? Per no, stavo rispondendo a Marco, siccome l'abbiamo comprato, visto a Corsaro ieri. E ha la spada praticamente, no? E lui dice che vuole qualche bersaglio per colpirlo, perché se no non si diverte. Allora non c'è un capo, se ti faccio un capo. Mario, e tu come ricevi con questo? Ma io ti ascolto bene, però ti cambia la voce. E come ti ha detto Antonio, è facile da confondersi con questo apparato. Gli cambia la voce perché non ha l'eco, è molto simile alla voce d'Antonio con questo apparato qui, vero Mario? Perché questo è lo stesso che sono uguali con quello che usa Antonio alcune volte, è sempre MV+5, però l'apparato è molto diverso. Capo, comunque si sente bene, è chiaro, Non c'è l'eco, non c'è niente, però si sente forte e chiaro. Questo è vecchiotto, ma già funziona ancora, Grazie invece, se lo vede Mario, è una cosa brutta da vedere, ma brutta. Poi è lungo, 40 centimetri di profondità, ed è tipo di grandezza, è più di quella di Mussolini, non so se ce l'ha presente, il super da presente, cioè è più grande ancora. Gappa. No, io di lungo gli apparati di macchina c'ho il moltevole 2, che rimane come frontalino, rimane come l'X666X, però come lunghezza è quasi un doppio. Grazie, che è lungo 40 centimetri, è mastodontico, è molto grande, poi pesa, tutto dentro, tutta la componentistica ancora di quella vecchia con i quarzi, bobine, contro bobine, bisogna due dritto, bisogna due condensatori, ma non so come ti so mai, fare di condensatore la matrice. Che chiatta! Io ho detto ricatta, però se non ti piace che cosa è brutto, me lo porti qui, lo metti insieme agli altri. Così è Mario, non disperi tu, no? No, guarda, ancora qualche buco c'è per poter mettere apparati, Vabbè, allora quando vedi tu ci penseremo, Ricordo, io sono sempre qua, Va benissimo, riprendi Giuseppe. Sì, grazie Pierpa. Giuseppe riprende giusto in tempo, visto che sono le 9:30, per andarsene tutto quanto in QRT, Pierpa. Vi saluta Colintino, grazie per la compagnia, grazie per la chiacchierata. Niente, domani la discesa a Cagliari è alquanto faticosa. Niente, va bene così, dai. Magari ci sentiamo quando esco domattina, se becco qualcuno già in frequenza, dai. Buonanotte a tutti e ci sentiamo alle prossime, se coincide. Vabbè, Giuseppe, allora buon QRT, buon lavoro per domani, buon viaggio, buon tutto, ce ne ascoltiamo domani. Avanti Gianni. Facciamo Giuseppe, dai. Buon viaggio per domani e buon corretti, dai, ci sentiamo, avanti mai. Ciao Giuseppe, a domani, tutte le migliori, dai. E niente, buon corretti, dormi bene e poi non ti preoccupare, non è così dura, lì ci sputi sopra e cammina da solo. Ciao Giuseppe, anni dopo ci sei. Perché ci sono già. la riprenditela. Paga, non hai comprato più nulla. Chi sei, Antonio? Oh, no, sono Pierpaolo. Ah no, tu non sei Pierpaolo. La sapete, dai. Non mi ricordo, regà, mamma mia, non mi lascio tranquillo. E anche io sono molto stanco, la verità, va un po'. Qualche quarto d'ora così e poi anche io avevo letto perché domani rientro al lavoro, dai. Hai viaggiato abbastanza. Ti sei trattenuto molto, anche la sei partito da casa. Con le 5:30. E pagava, e quindi... Da mezza sei arrivato. Alle 7 sono arrivato. Lo so, guarda, lo so, partito proprio alle 5, lo so, partito alle 5:15 passate. E sono arrivato alle 7:05, stavo entrando a Sassari. E te, non è Drumbelli? Ero Drumbelli, ero con un Audi A4, turbo diesel. E vabbè, quello è già pompa, non si deve far pompare pompa. Ehi, è già pompa abbastanza. È 2000 di cilindrata, a voi. Azzuccia, riccia. No, non ti credo, Se va a cammini su strada, no? Ah, vaga, vaga. E vabbè, tutto fatto, tutto a posto. Tutto a posto, tutto ok. Mezzogiorno. Vabbè. No, c'era, era soltanto il controllo, là. Vabbè. Cava. Andava. Tutto bene, ciò che finisce bene. Quindi non hai fatto nulla, non hai nemmeno passeggiato a cadere niente. Quello passeggiato, devo andare, se lo stare lì, no. Non ne sono uscito quasi alle 4:30 con dove andavi. Beh. Se no magari un oggetto l'avresti fatto se ne vi voglia. A vedere qualche negozio, ragazzi, che vogliamo sapere di più. Ma come va per queste cose? Non c'è poi quando esci. Allora che sono uscito io semplicemente da rientrare a Sassari, che mi ha preso a rientrare a Sassari, quindi è un tempo brutto. Poi fa buio presto, casino. Vedi, la fortuna che era, ma l'altra già ce l'ho, che è d'estate, a giugno. Allora sì. Ma cos'è che fa buio presto, le 5:30 è già buio. Ma le 5:30, allora avevamo già fatto buccia alle 4:30, vabbè che è sempre brutto. Infatti quando c'è questo tempo nuvoloso fa buio prima. Cava, Mario. E là, così è purtroppo, ma tutto passa in un baleno. E poi in aria 4 lo stesso stai viaggiando in un salotto, mi. Sicuramente un 2000 turbo diesel, viaggia alla grande quello, eh. Ebbene, certo, è come la mia punta, quello è poco ma è sicuro, Vabbè, la punta pure già cammina, non è che si è dormita come macchina, solo che è la dimmo, perché non è stabile per niente. Si imbarca facilmente come macchina. Ma è tutta un'altra cosa, dall'Audi A4, c'è un abisso, c'è di tutto, anche di tenuta, di tutto, non si può paragonare. E poi soprattutto perché la mia benzina, per andare lì ci sono voluti 40 euro, ma con la mia ce ne vorrebbero 70. E con la mia ce ne vogliono 200. E anche cosa vai? Io sono 155 e 1008. No, non ho capito. 155 e 1008. Cazzo, benzina. E allora? Sì, cazzo. Mamma mia, io ce l'ho acciucciata. Ma ce l'hai pensato a fare l'impianto a gas, ma... No, la verità, perché ti posso dire una cosa, io ho qui sotto casa, ho sempre la vecchia 75, se te la ricordi. E niente, c'è 200.000 chilometri. Scendo giù, gli metto la batteria nuova e le andetti. E sono macchine interne quelle. Ma quella 75 è rossa, Mario. K. Ancora viale. Ma c'ha 23 anni quella macchina. Ecco. Io pensavo l'avessi rottamata. No, mio figlio. Allora, già quando era viva lì, io volevo versarla. Ci avevano preso 14 milioni per ritirare la 155 e lei non ha voluto darla, ha detto di lasciarla lì che non stava chiedendo pane. Adesso che è cresciuto mio figlio gli ho detto ma cosa facciamo in questa macchina? Ce la buttiamo, intanto lì tu, e ne posso guidare una, non due. E mi ha detto lasciala lì che se non ti chiede pane, come ti diceva mamma, che quando è il momento la iscriviamo all'ASI e la facciamo camminare. Capo, mi pare che devo avere 25 anni e poi scriverla così. No, bastano 20. 20 bastano. Io mi ricordavo che avevo 25, perché c'aveva una 500 vecchia, un amico aveva la passata, ci volevano 25 anni. Ah, boh, non lo so, a me mi hanno detto 20. Comunque quella linea è già 23. Perché è dell'87. E allora che sono 23. L'85, 23 sono, neanche. E comunque già ce ne sono anche di precedenti che sono già dopo. È in campo di positivo. No, ma questa qui ne ha 23 giusti. E niente. Adesso il giorno che mi gira vado proprio a scrivere la RASI e la rimettiamo in moto e la rifacciamo camminare. All'ACCIA! All'ASI, ASI! E sarebbe questo ASI, non lo so. È il coso, l'albo dove si scrivono le macchine d'epoca. La vagava. Sai che ti trovo con la targa? No! Dice che danno la targa adesso, danno la targa da applicare sopra quella, tu? No, non è vero niente. Anzi, questa qui c'è il valore perché non è stata mai cambiato il numero di targa. C'è la sua targa originale ed è 316-713. Di quelle bianche le targhe, o quella che c'aveva l'SS rosso? No, bianca, la targa è bianca. Gava. Io già sono un valore dopo. È stato di positivo. No, ma diciamo che come divertimento, come la 75 non ce n'è. Perché la trazione posteriore, sai come è questa cosa? Una bellezza. Invece la 75, la 55 è la trazione anteriore ed è più precisa nelle curve, solamente che c'ha dietro che secondo la curva che fai è un peso trainante che tende a imbarcarsi un po'. Non so come sono le vecchie alfa trazione posteriore, dalla 75 in poi infatti è partita la trazione anteriore, la trazione posteriore è quella da come hai detto tu, da far girare, è molto bella, sono le macchine sportive in pratica, sì, sono tutte belle per quello, e voglio anche saputo guidare, perché quelle lì non ti potevi permettere di perdere la marcia semplicemente con la trazione posteriore. Se perdi la marcia in curva sei fuori. Ah, K di positivo. Ah, vero, un campo di positivo, sono ben divertiti da guidare. E poi, per il tempo che era una macchina che in quell'epoca era uscita con 150 cavalli. Adesso 150 cavalli ce li hanno potuti, ma in quel tempo lì avere 150 cavalli sotto il sedere, sai come ti divertivi? Sì, beh, all'epoca sì. Adesso ci sono macchinette, scatolette sardina, che hanno 150 cavalli, che hanno 155 e anche 170 cavalli. Ce ne sono anche più piccole, che ce ne hanno 200, 210. C'è la Leo della Seat, che è un 1.800 stesso, però c'ha 200 cavalli. Sì, io lo so, ma anche i più piccoli, anche di quella ce ne sono con più cavalli. Adesso non fanno più paura i cavalli. Sono cattoletti e sono male anche. Per me la macchina per avere i cavalli deve essere anche di una certa stanza. Anche se io ce l'ho questa qua, appunto, diciamo che non è piccola ma neanche grande, però sinceramente per questioni economiche, ma a me piace la macchina. Io prima ce l'avevo un Renault 19 ed era una macchina giusta per me, anche per starci seduto e tutto. In capo di positivo, no? Anche io sono per questioni economiche e per questione di comodità, perché sia nella 75 io ti faccio vedere che non dico tu perché tu sei bello robusto, però due persone normali ce le fai coricare anche dentro il cofano. Si viaggia bene, è spaziosa. Io quando ho avuto due station wagon, proprio perché io vado a pescare, adesso vado poco, ma per la famiglia, per tutto, per fare la spesa, è comodo, col portavaga di grande è comodo. Ebbene, se non è grande nella station wagon, dove è grande? Io... La mia, per quella macchinetta che è, c'è un cofano che è una bomba. Allora, io quando arriva la signora, dentro il cofano mettevo il tavolino, quattro sedie, due frigoriferi, il braciere, il carbone, tutta la spesa. Mi sentia poco di roba dentro. Fai girare un po' con la 75, magari poi si è fermato e si rovina. No, che si rovini non si rovina, però non la sta facendo circolare perché è stata una volta, capito? E siccome l'ultima volta che mi avevano fermato con quella lì mi hanno detto, ma se noi ce l'abbiamo mangiata anche tra vent'anni, anche la mettiamo, andiamo al cimitero. E allora no, non l'ho più usato io, là. Tanto ce l'avevo l'altra e l'altra è testata a me e via. Beh, non ho capito. Allora non la devi usare perché è testata a No, la dovrei testare a Davide, perché le vede lui. Allora se è così bisogna testarlo a lui, ma mi sa bene, è nuova, a me mi stanno facendo le ammaccature i ragazzetti che vengono qui, che arrivano con le moto e la appoggiano alla macchina mia e già gli hanno fatto un paio di ammaccature. Ma non ce l'abbiamo il cappallone quella lì? Ma quella lì ce l'ho sempre sotto casa. Mi hai detto che ne avevi una al campanone che ti aveva rotto il vetro, se non sbaglio. Ce l'avevo un poi quando mi hanno rotto il vetro ho detto è meglio che me la porti a casa, non se ne parla più perché almeno qui mi hanno fatto qualche macchiatura, allora mi hanno detto se il gusto di spaccare il vetro gli hanno tirato un cantone. Che bastardo, in Italia. Avanti, grazie. E io riprendo e chiudo, perché sono tantissimo. Vi saluto a buonanotte circolare a tutti, anche ad eventuali ascoltori. Ce la riascoltiamo domani alle prossime, dai. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte per pace, ci sentiamo. Avanti mai. Ciao Pierpa, buonanotte, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime. Raga, Mario, tu sei più alfista stesso. Alfista sei stato. Papà, io ho iniziato con il GT Junior 1003. Poi sono passato dal GT alla Giulietta e ci avevo la Giulietta 1600, sempre a trazione posteriore. Poi dalla Giulietta sono passato alla 75 e dopo tanti anni che ce l'avevo abbiamo pigliato la 55. Ma comunque la 75 per quello che ho visto anni fa sempre la sua fine, è sempre una bella macchina. Cappa di positivo. No, a me mi ha tolto tante soddisfazioni la 75, poi una macchina che non mi ha mai lasciato a piedi. E ho girato mezza Europa. Infatti Rugo. Avevo un amico che aveva la Twist Park. 75 Twist Park. Ah, no, ma bella. Ma tanto che la mia che cos'è? Quella 75 2000 Twist Park. Ah, vero. Ed era una bomba, poco camminava. Ora vado, lo so quello che cammina sempre come anche prima, Però a buone moto subito. Mario, quanto faceva di velocità massima? Loro me la davano per 210, però io camminando così l'ho fatta arrivare fino a 220. Come consuma però quando avete colto la città? Consuma. Diciamo che oggi la benzina è raddoppiata rispetto a 20 anni fa. Se no, 20 anni fa, quando io ho fatto il giro di mezza Europa, non è che mi lamentavo per il consumo, perché era abbastanza contenuta. Mi faceva i 15 su strada. Comunque era una macchina buona, valida. Penso che rimettendo la moto da poco, vada variando. Adesso mi sto sempre battagliando con mio figlio a fargli tagliare la patente, così sarà in testa lui, e non dico che cammini alla grande, però a spostarsi almeno in città gli va bene. Ma lui è tirato attagliato alla moto, giuro che se ne ha fatta murare. Se no lui aveva il 125 Aprilia e gli piace un bel moto mia, e il GPR. Meglio che si prenda la patente, ma no, io la compro, guarda, con la polizia, la lascio con me. No, non mi fido molto. No, già è bella, anche a me la moto mi piace, se no a vecchiaia non mi avevo comprato un Kawasaki 750, no? La Seba PZ. A me mi piace, solamente che da quando sono stato operato il serbatoio mi dà un bel fastidio, perché devi stare in quel caso sopra il serbatoio. Purtroppo viene, prendersi un'altra moto un po' più comoda. Guarda, oramai la moto, sì, se mi capita un giro me lo faccio, perché un giro me lo faccio, però con quella moto la tentazione è sempre grande, a chi non posso di cuore mi viene sempre. L'ultima volta che l'ho preso stavo scendendo a Porto Torres, l'ho fatto arrivare al 270 e poi gli fino a una deriso che mi dice che sto diventata la moto. No, oramai conviene andare un po' più calmo, non ho mai più la pena di scappare, perciò siamo diretti, chi altri, andiamo. Però so che ti piace, pure magari sei sempre stato così, però alla fine c'è un limite, dai. Ehi, ma chi mi conosce bene, già lo sai che io in macchina sono mezzo scemo. E anche in moto non è che mi faccio prendere così, no? Ma oramai secondo me le cose si lasciano portare, dai. Non è perché sei arrivato anche a dei casi. Bisogna andare un po' più caro. Ma che brutta, ma va appena appena, andare appena appena di più. E lo sapevo che ti dica. Oh, io cammino pure con lì, non è che ando piano, no? Davvero, per chi mi conosce ti sto dicendo, tu gli dici, ma come cammina Mario? In macchina, in moto, col camion? Carusa, mi dici, e mi gli andava a piedi. Già, ti riprendi. Io riprendo a salutarmi, mi rimango in quell'X che sono troppo stanco, mi fa male anche un po' la schiena oggi, boh, ho lavorato troppo e stamattina specialmente mi hanno grippato. Vabbè, vi auguro tutti buonanotte e buon trabacco per domani. Ciao ciao. Ciao già, buon quelli, buon tutto. E anche io ne approfitto, sono quasi le 10. E anche io mi preparo per andare nella culla là, così mi finisco di guardare il film a letto. Ciao a tu, a domani, ce la risentiamo là. Ciao Mario, dai. Ciao, vi sentiamo a domani, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.